English Bit di Giulia Crivelli. Parenthood. Congressional Healthcare Bill defunds Planned Parenthood. Un titolo molto interessante quello del Washington Post, perché è pieno di false friends. La traduzione è: il disegno di legge sulla sanità all'esame del Parlamento toglie fondi, defunds, alle politiche per la genitorialità pianificata, ovvero consultori e programmi di educazione sessuale nelle scuole. La parola che ci interessa è parenthood, genitorialità, ovvero l'essere genitori. Ma vediamo prima i falsi amici. Congressional significa del congresso, che in italiano dobbiamo tradurre con Parlamento. Quello americano, come il nostro, è composto da due camere, il Senate, Senato, e la House of Representatives, la Camera Bassa. Ma non viene mai indicato come Parliament, benché il termine in inglese esista e possa essere usato per indicare i parlamenti di altri paesi, ad esempio Italian Parliament, il Parlamento italiano. La seconda parola che potrebbe trarre in inganno è bill, che a molti credo faccia pensare alle banconote, a $20 bill, una banconota da $20, a €50 bill, una banconota da €50. Ha però anche un significato politico, o meglio legale. In italiano diremmo disegno di legge o proposta di legge, ma anche legge una volta che fosse definitivamente approvata dal Congress, Parlamento. Veniamo a parenthood. La parola è composta da parent, se vogliamo un altro false friend perché significa genitore e non parente, che si dice invece relative, e hood, the responsibilities and joys of parenthood, le responsabilità e le gioie dell'essere genitori. Il suffisso hood può essere utilizzato per comporre moltissimi altri sostantivi. Childhood è l'infanzia. She had a happy childhood. Ha avuto un'infanzia felice. Falsehood è l'universo della non verità. To test the truth or falsehood of her claims, testare la veridicità o falsità delle sue affermazioni. Neighborhood è il vicinato, visto che neighbor è il vicino, ma anche quartiere. We grew up in the same neighborhood, siamo cresciuti nello stesso quartiere. Attenzione però, perché per qualche ragione hood da solo vuol dire tutt'altro, cioè cappuccio. A jacket with a detachable hood, una giacca con un cappuccio staccabile. A hooded figure waited in the doorway, una persona incappucciata aspettava vicino alla porta.